Mix 24 Estate di Giovanni Minoli. Bentornati su Mix 24 Estate con una nuova puntata del nostro viaggio tra musica e storia negli anni 70. A guidarci come sempre le voci di Franco Schipani e di Alessandra Fiori. Siamo nel 76, un anno di grandi ritorni, vero Franco? Beh, protagonista assoluto delle classifiche per un decennio consecutivo, poi improvvisamente si fa da parte, ritorna ed è ancora numero uno. Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me. E ci scappa da ridere. Lucio Battisti, ancora tu, ma non dovevamo non vederci più, mi sembra proprio il caso di dirlo. Noi invece ci risentiamo, ciao a tutti, sono Franco Schipani. Ciao, io sono Alessandra Fiori e siamo nel 1976. E Franco, i diciottenni votano per la prima volta. Ci si aspettava, sai Franco, i giovani, il 68. Insomma, ci si aspettava un sorpasso del Partito Comunista. E invece, nelle elezioni del 76, caro Franco, il 20 giugno la Democrazia Cristiana prende quasi 1,5 milioni di voti in più del Partito Comunista. Colpo di scena. Colpo di scena. E si insedia il terzo governo Andreotti, un monocolore democristiano cosiddetto di solidarietà nazionale, che è stato anche ricordato da Giorgio Napolitano nel 2013, quando l'8 aprile, dopo la vittoria di misura del PD, lanciò un messaggio ai partiti. E ci volle coraggio per quella scelta di inedita larga intesa e solidarietà, imposta da minacce e prove per l'Italia che si chiamavano inflazione e situazione finanziaria fuori controllo e aggressione terroristica ormai già manifesta allo Stato democratico come degenerazione ultima dell'estremismo demagogico. Ma non è soltanto l'anno dei diciottenni, mia cara Alessandra, perché in Italia, dopo le bubble gum e dopo i brani strumentali, questa moda incredibile, che cosa succede? I bambini arrivano e diventano un target per l'industria, un target da non sottovalutare. La tartaruga un tempo fu un animale che correva a testa in giù. Come un siluro filava via, che ti sembrava un treno sulla ferrovia. Ma il bassotto poliziotto scoprirà la verità. Il bassotto poliziotto scoprirà la verità. Quel gufo con gli occhiali, che sguardo che ha. Lo prendi, papà? Sì. La lepre in tuta rossa, che fa? Lo prendi, papà? La tartaruga, Bruno Lauzi, Gionno Bassotto di Lino Toffola e Sei Forte Papà di Gianni Morandi. E mentre sentivo questi brani ho visto te che sorridevi, perché sicuramente dei bambini, vero Alessandra? Che io ho dei bambini, sì, ho una bambina e devo dire che mi colpisce vedere, sentire Morandi come modello di primo genitore vessato. Hai sentito quando dice: sei visto papà? Sì, ho visto. Oh, sì, sì, te lo compro. Cioè, è da lì che risale, è lì tutto. Che nasce Morandi, il Morandi. Ma mi rendi conto, Morandi che negli anni 60 era il numero uno delle classifiche, per poi rientrare in classifica ha dovuto rivolgersi ai bambini, cara ai Alessandra. Bambini, e diventano un target. Un target, da si lì, cominciano a comprare, lì, sì, capito, la paghetta, già tutto, sì, c'era tutto, tutto visto, tutto controllato. Quindi insomma mi sembra di capire che è il 1976 l'anno responsabile della nascita del bambino consumatore, in qualche modo, Franco. Eh sì, cara Alessandra, perché anche in televisione la RAI, Radio Televisione Italiana, intensifica la programmazione per i più piccoli. Sandokan Candocan degli Oliver Onions, che ha un po' risvegliato anche in noi il bambino che è in noi, vero Alessandra? Eh beh certo, perché nel 76, io ci tengo a dirlo, non ero nata, però nel 76 va in onda la serie diretta da Sergio Sollima con Kabir Bedi, pensa a Kabir Bedi già nel 76. Tutte le italiane innamorate tutte di lui, tutte. Pazze. Philippe Leroy, Carol André, Andrea Giordana e Adolfo Celi, tratto dai romanzi del ciclo indo-malese di Emilio Salgari. E quindi tutti a cantare, Sandokan. Non canto più perché mi è stato detto di astenermi. Okay. Quindi... non ho canti benissimo. Comunque, Alessandra, ci sono anche artisti che in televisione non ci vanno quasi mai, ma comunque sfondano. Lì, quattro buchi nella pelle. Carta di giornale, lì, nuda e senza scarpe, lì, bianca non in ospedale. Lilli, Antonello Venditti, un pezzo tosto. Beh, questo sì, Alessandra. Abbastanza. Comunque ho notato che Antonello Venditti sta un po' seguendo quella che è la tecnica, non so se chiamarla così, di De Gregori. Recentemente è sparito anche lui dalla forse televisione. Forse si sono invertiti. Forse, non lo so. Sono comunque scambiati. Di sicuro mantiene veramente un profilo molto basso, Ah, invece il terrorismo nel 1976, Franco, è sempre in prima pagina. Il 17 maggio di quell'anno comincia a Torino il processo al cosiddetto nucleo storico delle Brigate Rosse e tra gli imputati ci sono appunto alcuni dei leader storici delle BR, Renato Curcio, Alberto Franceschini e Prospero Gallinari. Il processo è in corso da 23 giorni quando, nel pomeriggio del 9 giugno del 1976, nell'aula della Corte d'Assise, Prospero Gallinari chiede di leggere un comunicato. Ieri, 8 giugno 1976, nuclei armati delle Brigate Rosse hanno giustiziato il boia di Stato Francesco Coco e i due mercenari che dovevano proteggerlo. Giustiziarli è stato assolutamente giusto. Non erano due figli del popolo, ma due scherri al servizio della controrivoluzione. Francesco Coco, il giudice che aveva fermato la liberazione degli ostaggi richiesta dai brigatisti in occasione del sequestro di Mario Sossi. Per la prima volta le BR uccidono deliberatamente. Per la prima volta a cadere vittima delle BR è un magistrato e naturalmente l'annuncio, dato così in un'aula di tribunale, fa scalpore, Franco. Sì, mi ricordo Alessandra perché la televisione ne parlò molto di quel fatto, di quel processo, molto molto famoso. Comunque, ritorniamo alla musica, ritorniamo alla televisione. E c'era un altro in America che odiava andare in televisione. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Cops. Him and

24, musica e storia. Invece esplode un gruppo che avrebbe bisogno di una stazione televisiva tutta sua. Questi sono gli ABBA con Fernando, SOS e Dancing Queen. Alessandra, wow, bentornati nel 1976 su Mix 24, musica e storia. Io sono Alessandra Fiori e con me c'è Franco Schipani. Ciao. Stiamo appunto raccontando il paese attraverso la storia e la musica. Ma intanto, Franco, gli ABBA, il 1976, che poi sono svedesi, scusa se non sbaglio, come l'IKEA. Come l'IKEA, come tante altre cose, come la mia terza moglie anche. Ah, vedi Franco, è il titolo di un film. La svedese. La terza moglie svedese. Non male, non male. Vabbè Franco, ma intanto, la musica italiana in televisione, te la chiedo così. Guarda, in televisione ci sono sempre gli stessi programmi che promuovono la stessa musica, qualcosa in più, perché ormai insomma stiamo andando anche nella musica d'avanguardia, ci sono dei programmi specifici eccetera, ma la vera novità del 1976 sono le radio libere, cioè esplodono, perché dopo la sentenza della Corte Costituzionale appunto nascono le radio libere, la prima a Milano che conosciamo tutti, che è Radio Popolare ovviamente, e poi qui a Roma GBR, Onda Rossa immagino, e poi RR96 di Radio Repubblica, dove io ho avuto l'onore, il privilegio e il piacere di lavorare, cara Alessandra. Caro Franco, ma nel 76 la stessa sentenza che citavi tu, del 28 luglio, consente non solo alle stazioni radiofoniche, ma anche a quelle televisive via etere di portata non eccedente l'ambito locale di trasmettere. Quindi insomma, Franco, che succede? Nasce la televisione privata e nasce anche un programma che televisivo, si chiama Domenica In, che non è mai terminato perché ancora esiste, mai. Inarrestabile come la corazzata Potemkin. Domenica In segue imperterrita. E cosa ascoltavamo noi a Domenica In? Cosa ascoltavamo? Beh, senti questi pezzi. Che cosa mi sta succedendo? Una tenerezza che io non ho provato mai, lo so che mi sto innamorando, ma non ho il coraggio di confessarlo neanche a me. Innamorato di te, ed ho 30 anni di più. E quando l'ho avuta di fronte, che scherzo m'han fatto gli occhi miei. Credevo che fossi tu ed era lei. Poi mi sembrò naturale guardarla così come guardo te, perché sei uscita per me. I'm Maestro di violino di Domenico Modugno e Gli occhi di tua madre, Sandro Giacobbi. Non ho mai capito perché Sandro Giacobbi alla fine si innamorava sempre delle mamme delle sue fidanzate. È una perversione anche quella. Comunque, però, guarda, ma Domenica Inn all'inizio è un programma popolare. Infatti, quel programma è stato inventato per tenere gli italiani a casa, perché in quel momento la benzina costava tantissimo. Quindi il governo chiese proprio alla RAI di produrre un programma popolare per tenere le famiglie a casa la domenica, per non farli lamentare del fatto. Ma questa è una nuova visione, una visione inedita. È vero, perché gli italiani prima andavano, facevano le gite fuori porta, prendevano la macchina, la benzina costa tanto, quindi rimanete a casa. E dopo tanti anni, con Domenica Inn, nonostante il prezzo della benzina sia sensibilmente diminuito, gli italiani sono sempre a casa e sempre col prezzo della benzina. Quindi in pratica il blocco petrolifero è all'origine di Domenica Inn. Anche questa è una notizia. È un fatto storico, Alessandra. È un fatto storico. Comunque, oggi io posso dire che, per fortuna, di popolare nel 1976 hanno pensato anche a un'altra trasmissione, un'altra grande novità. L'Auto Domenica si è sempre prefissa nei suoi lunghi anni di vita di farvi conoscere i nuovi talenti della musica leggera, ma anche i vecchi, come avete visto in taluni casi, come nel caso dei messicani. Siamo aperti al nuovo e al vecchio, purché sia valido, ma i nuovi ci interessano in particolare, soprattutto quando sono giovani, e quindi quest'anno abbiamo chiesto ad alcuni, abbiamo individuato alcuni talenti nuovi della musica leggera e così li abbiamo fatti esibire per noi, oppure siamo andati a coglierli laddove si esibivano. Il primo della serie che vi presentiamo questa settimana si chiama Vasco Rossi. Non so molto di lui, devo dire la verità, tranne anche perché sarebbero le solite notizie, è nato a Cerra, queste cose che invece non, poi non sono vere. E dunque, in questo momento sta facendo il servizio militare e infatti ha intitolato una canzone Faccio il militare. Domani sera scrivo a mia madre che non voglio tornare. Era la voce di Renzo Arbaro all'altra domenica che, come sentivi, lanciava Vasco Rossi. Vasco Rossi. Un Vasco Rossi, Franco. Vasco Rossi, non so, il nuovo. Che cosa ci potevamo aspettare? Che fosse il nuovo Lucio Battisti? Ma guarda, Battisti e Battisti, Vasco Rossi e Vasco Rossi, come ragazzi, Celentano e Claudia Mori. Celentano. E la benzina ogni giorno costa sempre di più. E la lira cede e precipita giù. Svalutation. Svalutation. Cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello Stato dove i soldi van giù. Svalutation. Svalutation. Io amore mio non capisco perché. Cerco per le ferie un posto al mare, non c'è. Svalutation. Svalutation. Con il salario di un mese compri solo un caffè. Gli stadi sono greviti ma la grana dov'è? Svalutation. Siamo in crisi ma senza andare in là, l'America è qua. In automobile a destra da 30 anni si va, ora contro mano vanno in tanti, si sa. Che scontration, che scontration. Con la nuova banca dei sequestri che c'è, ditemi il valore della vita quant'è. Svalutation. Valutation. Io amore mio non capisco perché. Tu vuoi fare il gallo poi fai l'uovo con me. Sulle tation. Sulle tation. Nessuno che ci insegna a non uccidere c'è. Si vive più di armi che di pane perché. Assassination. Assassination. Se lo vuole sa che ce la farà. Pronto? Ah Filippo, ma dove sei? Ma come dove sto? Con sto caldo sto al mare, oh! Ma quale mare, Fili? Torna subito! Per miracolo quelli di Radio 24 ci hanno ingaggiato. Sono riuscito a vendervi un programma. Si chiama I Fuori Posto. Ma ci pagano? Ma sì che ci pagano! Ma di che parla sto programma? Che ti devo dire? Parleremo di tutti quelli che sono alla ricerca di un posto di lavoro, nel cuore di qualcuno, quelli che un posto prima ce l'avevano e mo non ce l'hanno più, eppure di tutti quelli che hanno scelto invece di stare nel posto sbagliato. Dai, muoviti, Filì! Ok, mi hai convinto, vengo! Dal 1 agosto Umberto Alezio e Filippo Roma saranno I Fuori Posto, dal lunedì al venerdì alle 10 su Radio 24. Oh, aspetta, aspetta, lasciateci i vostri messaggi a iFuoriPosto@radio24.it o allo 0246524182 o via sms al 349-2386666. Mix 24, musica e storia. Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale. Non ti sembra un po' caro il prezzo che adesso io sto per pagare? What a difference a day makes, 24 little hours, from the sun and the flowers, when they used to be. Se mi lasci non vale, Julio Iglesias, What a Different Day Makes di Esther Phillips. Attenzione, perché loro hanno partecipato a Sanremo, però come ospiti internazionali, non erano. Mi sembra difficile che Esther Phillips vincesse. Assolutamente. Ma comunque, bentornati su Mix 24 Musica e Storia nel 1976 con Franco Schipani e Alessandra Fiori. Grazie. Franco, qual è il giallo del Sanremo 76? Raccontaci. Il giallo che veramente si vede che ormai ha perso completamente interesse. Le due serate, le prime due serate vengono trasmesse in radio, ma anche solo, guarda, quasi parzialmente. La terza serata quasi snobbata perché fa finire un'altra volta dentro il telegiornale e vengono oscurati tutti, anche Julio Iglesias, che infatti non si vede nel festival, si vede a un certo punto perché hanno cantato più canzoni e quindi qualcosa hanno recuperato. Però insomma, alla fine che cosa succede? Succede che finalmente questo casinò viene distrutto, viene rinnovato. Comunque ormai Sanremo è tutto da ricostruire. E ricostruire, Franco, diventa proprio la parola chiave per gli abitanti del Friuli. Il 6 maggio del 1976 un terremoto colpisce l'Italia settentrionale e l'epicentro è in Friuli. Un Friuli così bello non lo rivedremo mai più. Ebbene, ne rifaremo uno nuovo domani, appena il terremoto lo permetterà, da soli. Con queste parole i friulani esprimono il loro carattere fiero. Alle 21 una terribile scossa distrugge buona parte della provincia a nord di Udine e quella di Pordenone. È la prima volta che la TV trasmette le immagini del dolore e della distruzione di un terremoto in tutte le case italiane. Il paese di Gemona è ridotto a un cumulo di macerie, Franco. Beh, guarda, sempre con le dovute distanze, se torniamo nella musica, lì c'è stato un altro terremoto, un altro evento un po' come si può definire? Catastrofico, perché finalmente il Cantegiro si arrende, non ce la fa più, nessuno lo guarda più, non ha più successo, quindi finisce, però prima di finire produce due meravigliosi brani. Perché Margherita è tutto ed è lei la mia pazzia. Margherita, Margherita, Margherita adesso è mia. Na na na na na na na. Margherita è mia. Nascondi tu, se c'è un altro dillo pure qui, non si può morire dentro. Margherita, Riccardo Cocciante, Non si può morire dentro, di Gianni Bella, noto fratello di Marcella Bella. Quindi un'altra coppia in famiglia che scala le classifiche dopo la Mia Martini e Loredana Bertè, cara Alessandra. Però io vedo quella faccia, adesso mi hai fatto l'occhio furbo, sai, l'occhio di Franco. Ormai ecco, mi conosci, eh? Sono pronta quasi quasi a tutto, dimmi tutto. Perché mi sto chiedendo, il mondo è pronto per ascoltare la nuova regina della disco music? Love to love you baby, could it be magic? Donna Summer, la nuova regina della disco music. Quando ho incontrato Donna Summer mi disse: ah, tu sei italiano, ma sai che anche io ho sposato un italiano, si chiama Bruce, è uno bravissimo, sa fare due cose benissimo, e una è cucinare. E l'altra, speriamo Franco fosse lavare piatti. No, io non era, lo so, non ho chiesto, quella. Sono educato, non ho chiesto. Però no, l'ho vista, quella. Aveva una faccia molto felice, rilassata, ecco, non so, fra le nuvole. Ti assicuro allora che lavava i piatti. Lavava i piatti. Lavava ah, i piatti. Finalmente un uomo a casa che lava i piatti. Questo che state ascoltando è Nice in the White Satin di Giorgio Moroder, perché è un famoso arrangiatore di Donna Summer, perché dietro tante cose di successo c'è sempre un italiano. Lui è di Ortisei, cara Alessandra, capito? Un italiano. L'uomo che ha rivoluzionato la disco music. Invece di fare il maestro di sci. Invece di fare il maestro di sci si è messo dietro un banco. Comunque, un grande italiano che ha avuto un successo fuori dal nostro paese e specialmente in America, Alessandra, grande. E in America, Franco, a New York, l'8 settembre del 1976, viene arrestato il finanziere Michele Sindona, ricercato per il fallimento della banca privata italiana. Così rispondeva Sindona nel carcere di Otisville alle domande di Giovanni Minoli. Ecco, cosa le faceva credere che i 25 anni di galera che ha avuto negli Stati Uniti fossero meglio di un giudizio in Italia prima? Io pensavo che non dovesse essere condannato in America. Ecco, ma lei 25 anni e 25 giorni. Ma lei si è sentito tradito dall'America in questa condanna? Io mi sono sentito tradito da magistrati e da rappresentanti del nostro pubblico ministero americano, che sono stati scorretti, disonesti e forse anche corrotti. Corrotti da chi? Evidentemente da chi aveva interesse a farmi condannare. E chi era? Il solito gruppo italiano. Tutti hanno paura di Cuccia perché è un ricattatore abituale. E l'ho scritto anche ai magistrati, quali non sono intervenuti. Che aveva commesso il reato di truffa e di aggiotaggio documentandolo nella Montecatini. I magistrati hanno paura di procedere perché lui si vanta di essere il padrone del Tribunale di Milano. Un'affermazione esplosiva. Sindona morirà avvelenato in un carcere di Voghera nel 1986. Sì, lo ricordo benissimo perché fu riportato tutti i giornali anche negli Stati Uniti. A proposito degli Stati Uniti e di Sindona, io mi ricordo che lui abitava sulla Fifth Avenue in un albergo di lusso che... No, era un albergo molto ben frequentato, si vedevano sempre uscire attori, registi, produttori e tantissimi, tantissimi cantanti che in quel momento erano ai vertici della hit parade americana. Just Fly, Robin Fly, Silver Connection, The Best Disco in Town, The Rich Family and Shake Your Booty, KC and the Sunshine Band. Senti Franco, ma tutta questa musica che tu mi fai sentire, ballare, eccetera, mi fa venire in mente una cosa. Ma in quegli anni, a New York, non c'era il Club 54? C'era il Club 54, lo studio 54 è il temutissimo cordone, sai, quello rosso, che poi hanno adottato un po' tutti. Ma sai com'è nata la storia di questo cordone? Non ne ho la più pallida idea. Il Club 54 non aveva la licenza dei liquori. Tutti i giorni loro andavano a chiedere una licenza dei liquori temporanea soltanto per quel giorno, perché c'era una festa privata, quindi non gliela potevano negare. Quindi loro cosa dovevano fare? Dovevano avere una lista di persone fittizie alla porta. Quindi quando la gente arrivava faceva: io sono Giovanni Gasparozzi, dico non sei sulla lista, fuori. Io sono Giovanni, non sei sulla lista, fuori. Praticamente loro prendevano quelli che gli erano più simpatici, quelli che facevano più scena, quelli più carini, quelli più di moda, quelli più trendy, chiamali come vuoi tu, però facevano entrare soltanto chi volevano. Perché? Perché c'era la lista. Perché hanno inventato la lista. La lista. E tu c'eri sulla lista? Ma io non c'avevo proprio bisogno, a me non c'erano i buttafuori, a me mi buttavano dentro, come mi vedevano dentro al 54. Che invidia, Franco, però guarda, ti dico una cosa, mentre tutti quanti stavano ballando, cicchi, cicchi, cicchi, cicchi, io ero un po' snobbino e sentivo questo. Santana con Europa and Rod Stewart con Sailing. Per cui tu alla fine, Franco, fai tanto il rockettaro, ma alla fine sei un romanticone, dai. Io ho capito che tu stai andando nella mia playlist, perché una delle poche cose che ho imparato a fare col dito bionico della mano destra, quindi mettere dei brani, cliccare. Solo quello, cliccare. Ah, ma quindi tu hai una playlist? Beh, l'hai già vista, l'hai vista benissimo, Alessandra. Già anche questa è un'altra notizia. E comunque su quella playlist sicuramente troveresti questi brani. Play your game as though that's how it ought to be, 'cause I'm easy. Do you get what you're hoping for? When you look behind you, there's no open doors. What are you hoping for? Do you know once we were standing all by myself, the Eric Carmen, Amici, Kit Carradine e Do You Know Where You Going To di Diana Ross. Kit Carradine, questo famoso pezzo dal film Nashville, mentre invece Alessandra giustamente conosce All By Myself perché? Vabbè, Franco, è Bridget Jones, ma cioè, che domande, lei disperata da sola che canta. Ho capito, ho capito. E poi sono io il romanticone, Alessandra, ok. Ma Franco, passando dalla scena di un film pazzesco come Bridget Jones, ti riporto non alla musica, ma per un attimo alla storia. Perché il 24 marzo del 1976, in Argentina, un colpo di Stato mette fine al governo di Perón. Al potere arriva il generale Videla. Nell'Argentina dei desaparecidos, un uomo ha salvato più di 5.000 persone da una morte sicura. Enrico Calamai, un italiano, un diplomatico, un eroe. Credo di essere riuscito a muovermi in situazioni complicate, perché sapevo quello che era in rischio, e cioè delle vite umane, e mi rendevo conto del privilegio, enorme privilegio, che la situazione mi concedeva, e cioè di poter aiutare, di poter veramente rendermi utile. Tutto qui. Enrico Calamai, un uomo misterioso e speciale, un eroe appunto. Ecco Franco, adesso possiamo tornare alla musica del 1976. E infatti nel 76 c'è un gruppo italiano, che si conferma non un fenomeno passeggero, ma una solida realtà. Che male fa credermi amica per una sera, fingere mai anche così darti tutto di me e non capire più tra forse meno che spazio c'è. Per un'ora d'amore non so cosa farei, per poterti sfiorare che male fa Mattia Bazar per un'ora d'amore, sempre in Mattia Bazar, cara Alessandra. Sempre loro, Franco. Però adesso ormai io lo so che tu ti sarai abituato, quindi ti faccio ascoltare questo sottofondo. Lo senti? Perché, Franco, in questo 1976 esce 900 di Bernardo Bertolucci. Che film meraviglioso, indimenticabile. Te lo una ricordi, produzione eh? Internazionale veramente vista da tutti. Cioè, è stato veramente un orgoglio vedere questo film in America, sai? E però ti devo dire che in questo film c'era una delle mie ex fidanzate. Ah, carissima. Franco, ma dillo subito, tu te lo ricordi per questo. Adesso naturalmente ci dici chi è. Non te lo posso dire perché ovviamente è ancora in attività. Io sono una persona molto riservata e a questo punto stiamo parlando della mia vita, delle mie mogli, delle mie fidanzate. Ormai da parecchio tempo sarebbe troppo, anche ora di farla finita, troppo, cara Alessandra, perché ci torneremo di te solo nel 77. Non ci hai raccontato nulla. Va bene, ok. Comunque, voglio dedicare a questa mia ex fidanzata due canzoni molto belle del 1976. Se devo vivere, I can't stop loving you di Male, resta con me di Marcella. Io intanto però vi saluto, sapete perché? Perché non ho niente a che fare come al solito con l'ultima canzone in programma, perché sono le ragazze che hanno fatto Comunella. È una collaborazione che lo hanno... quindi tra... non è una Comunella, è no, una... no, no, Fiori Guerrera a Migliaccio, Chiappini, okay, una ogni coproduzione. Tanto. Però soprattutto Migliaccio e Guerrera direi oggi. Va bene. Che hanno scelto una canzone del 1976 rifatta, come sempre, ed è Per un'ora d'amore dei Subsonica. Ciao a tutti da Alessandra Fiori e da Franco Schipani, ci vediamo nel 1977. Domani. Per un'ora d'amore non so cosa fare. Per poterti sfiorare non so cosa dare. cosa farei. Per poterti sfiorare non so cosa darei. Poterti sfiorare.